voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. 14ª puntata. Passai da casa verso sera per parlare alla Marina. Buon uomo, mi disse, non consumi la chiave. Si lavora, le dissi. La faccia ce l'hai. Come vanno i vicini? Le pagai la mesata e le chiesi se aveva in contrario che ci dormisse quella notte un vecchio amico. Lo conosci da un giorno, mi disse. E gli dai da dormire? Allora passai da Dorina e trovai tutti in aria. C'era di nuovo che Carletto era accettato all'Argentina. Quella sera gli avrebbero fatto il contratto. Era fuori e sarebbe tornato a momenti. Sono contento per voi altre, disse a Dorina, ma Carletto è un fringuello. Lei si offese e mi chiese perché. Non succede che a Roma, le dissi, tutto finisce in allegria. Allora Dorina mi disse di smetterla. Non ero più l'amico vero di Carletto, ecco il fatto. Da quando stavo con la Gina ero cambiato. Da quella volta di Luciano ce l'avevo su con loro. M'ero messo con gente che puzzava di sporco, che avrebbe finito per farmi del male. Lo dicevano tutti. Divenne rossa e le mancò la voce. In sostanza diceva che avrei fatto meglio passare le sere con loro a suonare la chitarra, a cercare di entrare in teatro. Carletto adesso può aiutarti, mi diceva. Non ti fidare di quegli altri. Capii che era meglio se Scarpa dormiva dov'era. Tanto valeva, per 2 giorni. Ci stava bene nel negozio e si era messo con Pippo a montare le ruote. Quella sera cenammo e sedemmo nell'orto. Non sapeva notizia degli altri. Per mezzanotte si doveva radunarci un'altra volta. Aspettavo Giuseppe. Suona un po' di chitarra, mi disse. Se davvero sei stato studente, gli chiesi, e tuo padre era un borghese, come va che lavori con noi? Perché hai dovuto scappare? Non ti conviene che in Italia c'è il fascismo? Tutte le classi hanno dei matti, disse lui. Se non fosse così saremmo ancora a Roma antica. Per cambiare le cose ci vogliono i matti. Ti sei mai chiesto cos'è un matto a questo mondo? Poi mi disse, anche tu sei un matto. Ti conviene il lavoro che fai? Se rischi il muro o la galera, chi ti paga? Siamo tutti sfruttati. E chi ti sfrutta? La Gina? Parlava brusco e divertito. Avevo voglia di rispondergli. Voglio dirti una cosa, mi fece. C'è questa sola differenza tra noi due. Quello che a me è costato mesi di sudore per decidermi, e libracci e batticuori, tu e la tua classe ce l'avete nel sangue. Sembra niente. Difficile è stato trovarli, i compagni. E perché li hai cercati? Speravi qualcosa? Li hai cercati perché avevi l'istinto. Quei pochi libri vorrei leggerli. Se un bel giorno le scuole saranno per noi, non è molto il guadagno dei libri. Ho visto in Spagna intellettuali far sciocchezze come gli altri. Quel che conta è l'istinto di classe. Parlavamo così, dentro l'orto. Non era buio, ma i lampioni si accendevano a distanza. Qualche finestra si era accesa. Pensare che Scarpa partiva domani mi faceva un'invidia. Tante cose poteva insegnarmi. Giuseppe venne che era notte e ci disse, qualcuno ha parlato. Era successo che la bettola era stata piantonata. Un compagno li aveva veduti che si davano il cambio, uno a un tavolo, l'altro sull'angolo. Non avevano preso ancora nessuno, aspettavano i grossi. Prenderanno il padrone, ci disse, che non sa dove è Scarpa. Voi, compagni, occhi aperti. Se ne andò, a passi lenti, come era venuto. Scarpa mi disse che il padrone in questi casi cade sempre, ma a lui sarebbe piaciuto vedere nei guai qualche testa più dura. Allora andiamo a fare 2 passi, mi propose. Io guardai dalla porta se non c'erano facce. Vieni anche tu, dicemmo a Gina, che aspettava solo questo. Salimmo su per la collina dalla chiesa. Gente andava e veniva e facevano baccano. Dalle osterie a quella luce si sentiva odor di vino. Chi non gridava era soltanto a bocca piena. Su tutta Roma c'era un cielo nero e acceso. Se stanotte magari ci pigliano, dissi, l'ultima cosa che sapremo sarà questo. Questo cosa? Disse Gina. Come mangiano, gridano e bevono a Roma, disse Scarpa. È così? Gli chiesi allora se capiva sempre tutto. Mi rispose che è come un amico che si è innamorato. Si sa già prima quel che dice. Tutti a suo tempo siamo stati innamorati. Pablo non è di quest'idea, disse Gina. C'era qualcosa nella voce che ci mise in allegria. Sono storie, fa Scarpa. Pablo è un bravo compagno. Poi ci disse di quando era stato in prigione qui a Roma, 10 anni fa. Ne avevo 20. Allora facevo l'anarchico. Mi hanno messo fuori perché hanno detto: questo è fesso. Come trattano dentro? Gli chiesi. Non è dentro che trattano male. Sono la gente che sta fuori. Anch'io ero innamorato e in un mese mi avevano già messe le corna. Gina gli disse: sarà vero? È una vita così. Va sempre male se vai dentro. C'è un'altra cosa che succede. A starci un pezzo ti dimentichi la gente. Esci fuori e ti accorgi che il mondo viveva lo stesso. Si capisce che cosa vuole dire essere morti. Meglio morire, disse Gina. Uscimmo fuori dalle case e si vedeva mezza Roma. Dissi a Scarpa: domani devi partire. Brutta cosa, mi disse, poter fermarsi solamente quando sai che sei cercato. Tornammo indietro e mandai Gina nella stanza della vecchia. Noi rientrammo in negozio e per metà della nottata si discusse. Scappare o cascarci, diceva, era uguale. Quello che importa è che ne restino degli altri. Ma viene un momento, diceva, che vorresti essere preso e non muoverti più. Qui da voi non è niente, mi disse. Mi raccontò della Germania e delle carceri di Spagna. Mentre parlava mi venivano i sudori. Abbiamo contro tutto il mondo, mi diceva. Non farti illusioni. È questo che qui non volete capire. Difendono il piatto e la tasca i borghesi. Sono pronti a far fuori metà della terra, a scannare i bambini pur di non perdere la greppia e lo staffile. Arriveranno anche in Italia, sta sicuro. Parleranno magari di Dio o della mamma. Mi viene in mente che Carletto aveva detto delle cose come queste. Glielo dissi. Se tu non sapessi com'è, mi spiegò, non saresti un compagno. Ma altro è saperlo, altro sapersi regolare. Tutti siamo borghesi quando abbiamo paura. E chiudere gli occhi e non vedere il temporale è soltanto paura, paura borghese. Che cos'è se non questo il marxismo? Vedere le cose come sono e provvedere. Mi spiegò che in Italia i borghesi facevano un gioco. Bravi ragazzi, ci dicevano i borghesi. Si sta male anche noi, mettiamoci insieme e diciamo al governo che basta. Conviene a noi, ma più a voi altri. Guardate all'estero i cattivi cosa fanno. State con noi, vi salveremo. E invece, disse quella notte, concludendo, bisogna salvarsi o morire con gli altri. La guerra di Spagna è perduta. Il giorno dopo venne Gina e ci svegliò. Io mi misi al lavoro, lui stette nell'orto a lavarsi la roba. Chiesi a Gina che cosa dicevano le donne in casa. Lei mi disse ridendo: sono stupiti che dormi con lui. L'hanno assunto Carletto al teatro. Questa sera ci vogliono a cena. Per tutto il giorno non pensammo a quell'invito. Scarpa stette tranquillo sul letto o nell'orto. Avevamo deciso di andare a passeggio col buio, tanto per fare qualcosa e bere un litro, quando arriva un ciclista con le gomme a tracolla. Lo conoscevo, era di quelli dell'Aurelia. Il padrone ha parlato, ci disse. Stanno arrestando della gente. I compagni hanno deciso che Scarpa non resti in città. Devo portarlo alla stazione di Trastevere. Scarpa disse: fortuna che ho lavato la roba. Si rivestì, posò la tuta e diede un bacio a me e alla Gina. Non scordarti i compagni di Spagna, mi disse. E partì. Siamo tutti vigliacchi. Scomparso Gino Scarpa mi parve d'essere sollevato. Ero sicuro che quell'oste non sapeva dove stavo e dissi a Gina: vuoi che andiamo a teatro? Lei mi guardò con l'aria allegra. Carletto, le donne, Luciano e i colleghi cenavano vicino all'Argentina. Per arrivarci feci un giro e intravidi la bettola di quella notte. Era chiusa e sprangata. La gente passava senza far caso. In quanti posti, pensavo, noi si passa e c'è stata la forza e nessuno lo sa. Forse un bel giorno, chissà quando, qualcuno potrà dirle tutte. La rivista era Il Solito. Da tanto tempo non ne avevo più vedute. A Torino, per via delle gambe, non c'ero più andato. E neanche a Roma non ci avevo mai pensato. Mi pareva che a Roma nessuno ne avesse bisogno. Non so perché, con quei fascisti dappertutto e col Papa. Altra gente, dicevo, altre usanze. Ma poi sul Lido avevo visto quei costumi in due pezzi. Dove c'è l'uomo, c'è la donna che ci sta. Per pigliarsi bel tempo sono tutti gli stessi. Stavolta usciva a fare il ballo perfino una negra. Era un donnone nudo nudo che saltava come un grillo. Questa va bene per Lubrani, dissi subito. Chissà se è lui che l'ha ruolata. Ma le negre non sono mai nude abbastanza, è per questo che fanno quegli urli e quei salti. Hanno una voce che spaventa e tocca il sangue. Ai romani piaceva e volevano il bis. Poi vedemmo Carletto in platea. Gina gli disse che aspettava di sentirlo. Lui ci guardò con l'aria tonta e ci spiegò che la scrittura cominciava fra 6 giorni. Sta a vedere, pensavo che la Torre Littoria gliela fa un'altra volta. Poi spuntarono gli altri, ci furono feste, saluti, risate. Non mi sentivo mica a posto in mezzo a tutte quelle facce. Mi pareva di averci con me Gino Scarpa, la sua voce, il suo ridere, e che in mezzo alla gente qualcuno sbucasse. Si va a cena, disse Dorina. Dove cenammo era famoso per porchetta e mozzarella. Carletto rifece per noi qualche scena sintetica. Era ancora più in gamba di un tempo, ma ci serviva un cameriere in giacca bianca e la cosa cambiava. Chi rideva da folle mordendosi il pugno era Gina. Io capivo che povera donna aveva ancora il batticuore per noi due e per questo rideva così, da ubriaca. Non una volta in quei 2 giorni che si fosse lamentata. Passò così tutta la sera e ritornammo al Milvio in gruppo. Mi faceva un effetto trovarmi con loro e sentire le voci e i discorsi d'un tempo. In quei 2 giorni erano successe tante cose che mi pareva di non essere più quello. Si diceva, si andava, si rideva così. Potei perfino ricordarmi che anche loro avevano fatto, che a sentire Luciano facevano ancora, ma capivo che c'era qualcosa tra noi, come un muro o una siepe spinata. Potevamo parlarci soltanto per ridere e con Giulianella si scherzò dei fatti miei. Poi, sul fatto del Plaza, giocai con Carletto e gli dissi che passi venirmi a cercare, ma portarmela a casa, volevo picchiarlo. In questa storia ci sei sempre tu, gli dicevo. Come mai? Sono almeno partiti? Lui mi disse di sì. Mi dispiacque. Per un pezzo i compagni non si fecero vivi. Non sapevo più niente, né dell'oste né degli altri. Se almeno Scarpa fosse stato ancora a Roma, potevamo incontrarci per caso. Certi giorni non ero tranquillo. Finì che mandai Pippo sull'Aurelia con dei pezzi e gli dissi di fare attenzione a chi c'era alle macchine. Mi mandarono a dire che stessi tranquillo, c'era ancora pericolo e niente da fare. Passai così gli ultimi giorni spensierati. Gina sentiva che qualcosa era nell'aria, diceva: «Che vuoi lavorare? Chiudi bottega e andiamo a prendere Dorina. Non vuoi goderli questi giorni?» Tornammo a Ostia, alla Pineta, a quelle strade fuori porta. Anche noi due bastavamo a stare allegri. Era settembre e c'era un'aria come il vetro. Ridiedi mano alla chitarra e verso sera, quando uscivo, mi pareva di averci le voglie di un tempo, di quando andavo a godere in collina con Lario e Chelino, quando tutto doveva succedere e Amelio era al mondo. Non era passato che un anno. Possibile? Sei contento di Roma? Diceva Carletto trottandomi dietro. Ci si sta bene in questo mondo, vecchio porco. Giulianella diceva: sei quasi sposato, hai la luna nel pozzo. Io pensavo a quegli altri, pensavo alla gente che stava in prigione, pensavo ai morti e ai moribondi della terra. Cosa sarebbe questo mondo se l'avessimo già vinta? Ma chissà, forse il bello è che dura un momento e che le cose non si possono cambiare. Una notte ci prese un piovasco per la strada quando eravamo appena usciti dal teatro e si dovette ripararci al primo buco. Come succede, queste cose mettono voglia di godere e si capita sempre nel posto più adatto. Sembra d'essere tanti ragazzi. Tutta Roma tuonava e allagava, volavano foglie, non c'era un cane in quella tampa tranne noi. Bevemmo del vino, anche Gina beveva. Carletto fece un gran discorso contro il fascio. Il padrone, sbarrata la porta, ci aprì una bottiglia che teneva per quando quel giorno sarebbe venuto e si mise a parlare anche lui. Quando sento Burrasca gridava, mi sembra sempre che si sveglino le trombe. Verrà quel fulmine, verrà su Palazzo Venezia, sui cieli di Roma, e quel giorno vedremo la morte del topo. Alla fine era sbronzo, ma non da lasciarci andar via al sereno senza pregarci e scongiurarci come figli che tacessimo, che fossimo umani, che perdessimo fino il ricordo di quelle bottiglie. Disse che lui, quando veniva il temporale, stralunava, ma per il resto la politica la fanno gli avventori. Per calmarlo Luciano gli disse: «Non sappiamo nemmeno la tua bottega dov'è». Quella faccia dell'oste ci stette davanti e Giulianella brontolava: «Sarà poi così scemo?» Spaventammo Carletto, Gli dicemmo che l'oste l'aveva certamente veduto in teatro. Lui se ne stette un po' dubbioso, poi ci disse: era sincero. Chi gli ripaga le bottiglie che ha stappato? Ci fu Gina che disse: tutti quanti eravate sinceri, ma se ha paura vi denuncia lui per primo. A che punto è ridotta l'Italia, mi disse Luciano. Ci si denuncia per non essere denunciati. Così sotto casa ricominciamo quel discorso e chiedevano, insistevano che stessi con loro. Da un giorno all'altro può succedere, dicevano. Lui è malato, sifilitico, dobbiamo essere pronti per lo scatto finale, dobbiamo mantenere i contatti. Se in quel punto la massa ci sfugge di mano, succede un macello. Può anche darsi, dicevo. E con questo? Ma non basta, dicevano. Non bisogna dar tempo alla guerra. Diventeremo un'altra Spagna. Li vedevo attraverso, come fossero vetro. In tutte quante le paure c'è un discorso proibito, un interesse che comanda e sta nascosto. Si difende la pelle, si difende la pace, queste cose si possono capire, succedono a tutti. Ma che quei due difendessero i denari dei borghesi, i denari che avevano fatto il fascismo, non potevo capirla. Glielo dissi, ridendo. Carletto disse che poteva aver ragione, ma tornò sul discorso dello scatto finale. È già successo, mi diceva, che si è persa l'occasione. Una massa sfuggita di mano si fa decimare. Abbiamo visto dei massacri nella storia. Volevano, insomma, parlare coi capi. Io risposi che i capi parlavano poco e queste cose le sapevano da un pezzo. Vieni tu, disse allora Luciano, parla tu con qualcuno. Questo qualcuno era un signore, occhiali d'oro e gilet bianco, che incontrammo davanti al teatro. Era lì con Giulianella e sembrava contento. Offrì a tutti un caffè e poi cianciammo. Il maggiore, ci disse Luciano, frequenta i concerti. Gli piacerebbe di sentire come suoni. Non è mica difficile, dissi. Basta che venga all'osteria qualche sera. Si va da Beppe, disse lui. Si parla un po'? Quel maggiore era un uomo prudente. Parlò davvero di chitarre e violoncelli. Si fermava per strada ogni tanto e diceva la sua. Noi altri intorno aspettavamo che finisse. Teneva a braccetto Giulianella e sembrava suo nonno. I tavolini avevano tutti una tovaglia dei fiori. Non capivo il bisogno di ficcarci là dentro per bere un bicchiere. Ma tant'è, Carletto, Giulianella, Luciano ci stavano allegri. Continuammo a parlare di musica. Il maggiore faceva dei discorsi difficili, mi guardava. Io guardavo Luciano. Un bel momento fu Carletto che interruppe. Disse: veniamo all'argomento. Qui c'è Pablo che sa chi noi siamo. Lei, maggiore, gli dica. Allora il vecchio si appoggiò sulla poltrona. Mi guardò con gli occhiali più lucidi, cominciò a farmi complimenti. Disse che gente come noi ce ne voleva, che ce n'era ancor poca, che eravamo dei santi. Ma la nostra magagna era stare nascosti. Perché non unire le nostre forze con quelle degli altri italiani? Che cos'è che volevano gli altri italiani? Farla finita coi violenti, coi cafoni, coi ladri, ritornare al rispetto di sé e alla legge, restaurare l'Italia e le sue libertà. Rovesciare il fascismo senza fare altri danni, interruppe Carletto. Il maggiore strizzò un occhio e riprese il discorso. Già una volta, mi disse, si era lasciato mano libera alle masse. Risultato? Io gli dissi che noi eravamo le masse e il risultato lo sapevano i borghesi come lui. Il maggiore sorrise di nuovo. Disse che certo le radici del fascismo sono vaste, ma che noi, incutendo paura alla gente, gli davamo vigore. Dovevamo discutere e farci conoscere, dovevamo impegnarci a un programma comune. Questo, mi disse, avrebbe chiesto ai nostri capi, avvicinandoli. Era un vecchio accidenti. Cominciavo ad accorgermene. Furono loro questa volta a guardarmi aprir bocca. Vedo ancora Giulianella che schiaccia la cicca nervosa. Dissi, cercando di star calmo, che da un pezzo si faceva qualcosa. Che non io, che ero niente, ma i grossi passavano il tempo a discutere. Che l'impegno comune doveva valere per tutti, che era inutile farsi l'illusione che i bei tempi tornassero e se noi facevamo paura c'era chi faceva pietà. Mi divertì vedere le facce quando dissi che da un pezzo si trattava, ma il maggiore sorrise dubbioso, disse che nulla è mai fiorito fuori tempo e che in queste faccende ci vuole buon senso. Intanto era lieto di avermi parlato, mi pregava di pensarci e di parlarne, ci propose di bere le nostre speranze. Per la chitarra ci vedemmo giorni dopo, non più da Beppe questa volta, ma sul terrazzo della casa di Luciano. Non c'ero mai stato e Giulianella ci mostrò di lassù mezza Roma. Il maggiore ascoltò la chitarra, discusse con me, mi spiegò che i partiti sono come le corde che fanno la musica. Non si suona strappando le corde, si suona toccandole. Ci vedemmo altre volte a passeggio qua e là per Roma. Gina mi chiese se i compagni erano morti. Non aveva una faccia scontenta. Non dispiaceva neanche a me tirare il fiato, ma quel lungo silenzio era sempre peggio. Passai davanti a quella bettola e la vidi ancor chiusa. Era domenica. Domattina, pensai, faccio un salto all'Aurelia. Non ebbi il tempo, per fortuna. Mi arrestarono prima di giorno, pigliandomi a letto. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.